Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Fu l'ultima volta che io la vidi. Lei pianse e sulla via del ritorno verso casa non mi cercava più. Da quel giorno non la vidi più, né io la cercai. A 3 anni non si domanda scusa. Fui accoppiato a lei, all'olandesina più bella del mondo, per giocare a nascondino. Fu la prima ad avvicinarsi e guardandomi negli occhi mi chiese come mi chiamassi. Antonio, risposi io paonazzo. Allora mi prese per mano, mi disse: dai, nascondiamoci dietro quella porta, ma mi raccomando, non parlare. Parlare. E chi ce la faceva a parlare? Dietro ad una porta, quasi al buio, con la bambina della mia vita. Parlare, per dire cosa poi? Fummo gli ultimi ad essere scoperti e per festeggiare lei cominciò a spruzzarmi acqua negli occhi con il suo anello fatato. Incoraggiato da questo gesto per me dolcissimo, continuai ad adorarla per il resto del pomeriggio e a servirle ettoliti d'aranciata. Ero perso di lei. Forse qualcuno che ascolta questo programma da un po' di anni e che soprattutto ha buona memoria si ricorderà questa storia. Era una storia che è andata in onda nella prima edizione di Voi siete qui, quindi era il 2011, era il settembre del 2011, visto che questa era la puntata numero 9, quindi parliamo di metà settembre del 2011. Questa storia c'era arrivata da Antonio Stornaiolo, che è un ascoltatore pugliese, tra l'altro con un passato e probabilmente con un presente nel mondo dello spettacolo, visto che faceva o fa parte, se esistono ancora, del duo comico Toti e Tata, forse li conoscete o ne avete sentito parlare. Antonio, senza sapere che fosse lui, ci mandò questa storia e la intitolò Margherita e la leggerezza dell'amore, e raccontava di una cosa di cui non si parla molto di frequente, che sono gli amori di bambini intesi come gli amori dei bambini, ma anche gli amori che nascono quando l'età ancora non ti ha fatto capire che cos'è l'amore. Ecco, oggi parliamo di quella cosa lì. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questo programma si chiama Voi siete qui, come avrete capito. Ogni giorno raccontiamo una storia, piccola o grande che sia. La storia di Domenico di oggi, che come avete sentito, o come meglio, come non avete sentito, non interviene in questa puntata perché ci ha chiesto di fare così, e quindi noi semplicemente raccontiamo la sua storia. Vi dicevo, la sua storia parla di quella cosa, parla in questo caso di un amore non univoco, perdonatemi, di un amore univoco, non biunivoco, dal momento che racconta di questi 3 anni e di questa bambina con cui passa un pezzo della sua giovinezza, anche se sono solo le vacanze estive, e lei si innamora di lui, ma lui no. C'è però un piccolo dettaglio in più in questa storia, perché è vero che gli amori bambini hanno quella leggerezza che perlomeno a noi sembra leggerezza, noi adulti, infatti probabilmente più tardi nella seconda parte del programma la dottoressa Manuela Trinci, che è psicoterapeuta dell'età evolutiva, che abbiamo già sentito lo scorso anno, che interpelleremo più tardi, ci spiegherà meglio se veramente gli amori bambini sono leggeri o invece hanno un peso profondo ed importante. Dicevo, quegli amori che visti da noi sembrano leggeri, in realtà spesso nascondono poi delle componenti che sono totalmente umane, insomma maschili in questo caso, o femminili. Perché, devo dire anche con grande delicatezza, Domenico racconta di come a un certo punto, giocando con questa ragazzina, anche se piccolo, anche se ha 3 anni, un po' si eccita. Un pochettino, dice giusto il tempo, un po' si arrapa un pochettino. Non so se ve lo ricordate quando è stata la prima volta, non so se vi ricordate quanti anni avevate, dove vi trovavate, cosa stavate facendo. Se ve lo ricordate però, uomini o donne che siate, giovani o anziani, 349-238-6666. Io ero nella piscina del Residence Elite di Marina di Campo, dove passavamo le vacanze con i nostri genitori, e avevo 6 anni, credo. Prima non me lo ricordo, sarà successo prima ma non me lo ricordo. Avevo 6 anni e stavamo giocando a pallavolo nell'acqua e ci fu un contatto involontario con una bambina con cui giocavamo. Non mi ricordo nemmeno chi fosse, a cosa stessimo giocando, però a un certo punto sentì come un sfrigolio sotto alla pancia. Ecco, una cosa così, una cosa innocente ma che effettivamente è accaduta. 349-238-6666. Sembra che la buttiamo in vacca, ma adesso raccontiamo una storia e più tardi sentiamo una psicoterapeuta dell'età evolutiva. La storia che stiamo per raccontarvi è la storia di Domenico, e racconta di questo, racconta di due bimbi, molto bimbi, intorno ai 3 anni, che giocano tra di loro. Tanti, ma tanti tanti anni fa. Esattamente tanti quanti mi permettevano di averne pochissimi. 3-4 al massimo. Ero in vacanza in una località in provincia di Brindisi, o Bari, non ho mai capito quale fosse perché si trova proprio sul confine delle due province. Torrecanne. Luglio era il mese che la mia famiglia sceglieva per trascorrere un mese di vacanza al mare. È possibile conoscere l'amore in tenera età? Io non lo so, ma vi racconto questo episodio, poi ognuno potrà o meno trarre qualche riflessione. Confinante col nostro appartamento e col piccolo cortile con giardino, c'era una famiglia, padre, madre e figlia, con una bambina dai lunghi riccioli d'oro, era tutta capelli, era un batuffolo di capelli, come le bambole di ceramica. Quando ero in casa, trascorrevo il mio tempo a giocare nel giardino. Non avevo giocattoli, o forse sì, non ricordo, ma ricordo benissimo che avevo una barchetta in plastica che riempivo sempre d'acqua. La mia vita scorreva così serenamente che sembrava che io non dovessi mai crescere. Al mondo c'eravamo io, i miei, il mare, la sabbia, i gelati, i giocattoli che distruggevo sistematicamente. Non c'era nemmeno l'idea che le persone potessero essere di due sessi differenti, scoperta che ho fatto solamente anni dopo. Questa bambina, che abitava accanto, una rete alta non più di mezzo metro separava i nostri cortili, era di un appiccicaticcio infinito. Lei voleva giocare con me. Era insopportabile e noiosa, voleva starmi sempre accanto, farsi partecipe dei miei giochi, della mia vita, dei miei pensieri, e io non la volevo, e più la trascuravo e più lei si avvicinava. E più si avvicinava e più io la trascuravo, io che non rivolgevo nemmeno una parola. Cosa c'è di peggio se non rivolgere nessuna parola ad una persona non gradita? Chiaramente i miei invece volevano che io giocassi con questa bambina, non avendo i miei soliti amichetti di paese, o chissà, ritenendo che fosse arrivato il momento che io capissi qualcosa di più di una femmina. Inoltre, io sono sempre stato riservato in merito al sesso, tanto da non sopportare nemmeno di stare completamente nudo sulla spiaggia, anche se deserta. E vi parlo di un'età in cui io non sapevo nulla del sesso, ma l'istinto mi diceva che non dovevo stare nudo. Alcuni miei giorni, soprattutto i pomeriggi, trascorsero, volente o nolente, soprattutto nolente, con questa bambina. Tuttavia non ricordo per quanto tempo abbiamo giocato assieme, non ricordo esattamente tutto, ma ricordo un episodio. Ero come sempre nel mio giardino e lei nel suo, divisi dalla rete. Un giorno lei voleva passare dalla mia parte, ma era impossibile. Noi eravamo piccoli, molto piccoli, io non più di 3-4 anni, come vi dicevo, lei sicuramente almeno un anno in meno. Le dissi che non poteva venire, che c'era la rete. E lei mi disse: prendimi in braccio, sollevami. E io le dissi: ma come faccio? E ammetto che in quel momento un po' mi dispiaceva per lei. E allora lei mi disse: prendimi sotto le braccia e sollevami. Insomma, tanto lei insistette che io così feci, la presi sotto le braccia, sollevandola per quanto potevo, ed indietreggiai. La rete si flesse sotto il suo peso, riuscendo così a portarla dalla mia parte, ma non è ancora finita. In questa azione, toccandola, sentii uno strano piacere fisico. Sì, mi eccitai. L'effetto fu solo momentaneo, durò solo il tempo del contatto e solo negli anni a seguire, capii il perché. Ci fu però poi un altro episodio che non dimenticherò mai. Eravamo al porto a passeggiare con i miei genitori. Io e lei giocavamo, o meglio, io le sfuggivo mentre lei mi rincorreva. Io non ero mai stato in compagnia dei suoi genitori, non avendo mai cercato la sua compagnia. Quel pomeriggio appunto eravamo al porto e lei, al solito, voleva non solo starmi accanto, ma avere anche un contatto fisico con me e io invece no. Quindi lei mi rincorreva ed io, più veloce, facilmente riuscivo non solo a distanziarla, ma potevo schivarla con abili finte. E fu così che accadde l'irreparabile. Lei cadde e si fece male al ginocchio. E lì fu l'ultima volta che la vidi. Lei pianse e sulla via del ritorno verso casa già non mi cercava più. E da allora io non la vidi più e non la cercai. A quell'età non si domanda scusa. E poi dimenticai subito l'episodio. Nel tempo però, negli anni a venire, ho ricordato con piacere ma anche con dispiacere quei momenti. Piacere che una persona si fosse affezionata così tanto a me, così tanto da poter sopportare qualsiasi mio rifiuto, ma dispiacere per quello che accadde, per la sua ferita. Forse lei continuava a sopportarmi con pazienza perché sicura che prima o poi potessi comprendere la realtà delle cose, e cioè l'amore o l'amicizia tra due persone o due bambini. Sarebbe bello se un giorno potessi chiedere scusa a questa ormai donna, perché fu solo colpa mia se lei cadde. C'era una specie d'amore in tutto questo? In me sicuramente no, in lei forse sì. In me solo dispiacere per quella caduta e per quella ferita al ginocchio. Ma in quel momento capii anche che non ero, in fondo, stato per nulla gentile con lei, tranne che per l'episodio della rete. Don't mind me, just let me be my eyes so far away. I don't need no sympathy, the world gets overplayed. Insomma, non è la prima storia che ci arriva di questo tipo. Non è quella di Domenico la prima storia che parla di amori, o forse no, insomma lui dice per me non è stato amore, forse per quella bimba invece sì. Dicevo, non è la prima storia che arriva che racconta di amori infantili, come se nella nostra mente di adulti rimanessero annidate queste storie che forse sono più leggere, o forse le ricordiamo come più leggere e amabili. E visto che ogni tanto ci piace sentire qualcuno che ne sa più di noi e che magari ci spiega qualche dinamica, qualche pezzo che rimane insoluto delle storie che ci arrivano, oggi abbiamo il piacere di sentire, dopo che l'avevamo sentita più o meno esattamente un anno fa, la dottoressa Manuela Trinci, che è psicoterapeuta dell'età evolutiva. Dottoressa Trinci, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Grazie per essere di nuovo con noi. Grazie a voi. Senta, la prima cosa che mi viene da domandarle è, ma ci si può veramente innamorare a 3 anni? Ma guardi, io penso di sì. L'altro giorno un bambino mi ha raccontato che un bambino della scuola dell'infanzia del primo anno mi ha detto, io l'amo l'Eloisa, l'amo, alla luna. E io credo che sia un'immagine bellissima, questo amore che si snoda, no? Piano piano, e arriva fino alla luna. Sì, no. Intanto disegnava cuori sul foglio, quindi sembrato veramente molto preso da questo eroico furore, no? Per dirla con Giordano Bruno. Ma quindi è un pathos, certo, guerriero che anima. E quanti anni aveva lui? 3 anni. Ah, 3 anni. Della scuola dell'infanzia. Ma quindi forse la domanda in realtà è un'altra. La domanda è, sbagliamo noi adulti a non prendere seriamente, e chi meglio di lei può rispondere a questa domanda, a non prendere seriamente o a prendere con leggerezza i sentimenti bambini, i sentimenti dei bambini? Guardi, questa domanda la ringrazio perché davvero credo che vada al cuore del problema. Nel senso che c'è un modello adulto che secondo me bamboleggia sull'amore dei bambini, allora si comincia, c'è il fidanzatino, non c'è, e questo non va bene perché non rispecchia, io credo, il sentimento dei bambini. Ecco, forse i bambini in questa direzione qui vanno rispettati di più, proprio in quello che diceva lei, in un ascolto del loro affetto, della dimostrazione di questo sentimento che sentono davvero irrompere dentro, e che comunque in questo bisogna stare attenti. L'amore dei bambini è sempre venato da una grande tenerezza, c'è qualcosa di che lo differenzia, quindi dal il linguaggio dell'infanzia è diverso dal linguaggio dell'adulto, dove c'è sensualità, no? Dove, certo, c'è una passione, un erotismo. Nel linguaggio dell'infanzia c'è la tenerezza che ha il sopravvento, e di questo noi non dobbiamo tener conto, non restando quindi con i nostri modelli e con i nostri linguaggi quello che invece è un'espressione proprio amorosa, amorevole del bambino. È chiarissimo questo concetto che, insomma, nel mondo, nell'amore adulto c'è più la sensualità, in quello fanciullesco c'è la tenerezza, è chiarissimo. Dottoressa, ma quindi insomma, mi perdoni la pragmaticità, ma quindi di fronte a un bambino, a un figlio, a un nipote o anche solo un bambino, che so, figlio di amici, che ti parla di un suo innamoramento, un adulto cosa deve fare, oltre a stare ad ascoltare sostanzialmente? Essere molto rispettoso, no? Perché in fondo sta parlando di un sentimento che c'è dentro. Guardi, le racconto una cosa proprio del figlio di un'amica che si era innamorato follemente di una bambina che si chiamava Fiammetta, Fiammetta non corrispondeva al suo amore, tant'è che lui, perché sono sempre dispari, no, questi amori infantili. Ah sì, cioè dice, sono quasi sempre unidirezionali. Esatto, Gino Paoli li chiama gli amori dispari, io trovo sia bello perché uno si innamora sempre di quello e fa la collezione francobolli, però quell'altro invece fa la collezione di piantine grasse, per cui insomma non si conciliano mai. E c'è questa aspirazione all'amore, un amore anche esagerato tante volte. Comunque questo bimbetto che si era innamorato di Fiammetta aveva messo di mangiare, quindi i genitori erano molto allarmati. Ah. E io chiesi al bambino ma cosa avesse di così particolare Fiammetta per essersene innamorato. E lui mi chiese che colore aveva capelli, e lui mi disse che aveva capelli marroni, aveva gli occhi marroni. Ma cosa c'ha di particolare, gli chiesi allora a un certo punto a Fiammetta. E lui mi rispose, è rosa. Io credo che sia una risposta stupenda, che rende l'idea del fatto sia enigmatico il sentimento e quanto anche sia sbagliato il saperlo dei bambini. Vanno protette le cose about children, no? Intorno a certo, riguardo come un'oasi ecologica, e quindi in questo senso qui a loro bisogna accostarsi. Tra l'altro io credo che davvero nessun adulto sarebbe in grado di definire un sentimento amoroso con questa linearità, è rosa. Dottoressa, è rosa. Prima di salutarla io vorrei chiedere solo un'ultima cosa, che so che è una domanda molto sostanziale ma che ha a che fare proprio con i bambini, ma siamo già noi a 3 anni? Cioè è già quasi tutto formato, è già quasi tutto deciso? Io non esagererei, perché c'è un po' questa enfasi ora si definisce. Esatto. I 3 anni. Non sono d'accordo. Cioè, sicuramente i primi anni di vita di un bambino, come viene accolto, le forme di attaccamento che il bambino sviluppa verso i genitori sono nodali per la nostra. Ma non dimentichiamo quanto sia importante l'ambiente che poi il bambino via via incontra. Chiarissimo. Quante volte dei bambini in difficoltà alla scuola elementare trovano degli ottimi insegnanti che li aiutano, e viceversa, no? Poi ci sono le scuole medie, gli amici, i genitori degli amici. Oggi non si può parlare di una mamma sola, per esempio. Le mamme, le figure importanti nella vita di un bambino vanno dall'educatore del nido, sono tante, quindi è un'integrazione. Assolutamente. Ogni volta che vorremmo sentire qualcosa sui bambini, ma anche non solo sui bambini, sugli adulti, lo chiederemo alla dottoressa Manuela Trinci. Grazie ancora, dottoressa. Grazie a voi. A presto, e buona giornata. Grazie mille. E tra l'altro Jared Diamond, che è un grande antropologo, geografo, antropologo più che altro, americano, che è stato in Nuova Guinea e ha studiato le società tradizionali, diceva la differenza sostanziale tra le società, nel modo in cui si gestiscono i bambini nelle società occidentali e in quella, è che in questa più o meno sono i genitori che crescono il bambino, anche se la dottoressa Trinci ci diceva che in realtà non è proprio così, e là invece c'è tutta la comunità, cioè tutti gli adulti sono un riferimento per i bambini. Ho adorato la definizione, il termine bamboleggiare, che ha usato la dottoressa per definire quei genitori o zii che ma c'è il fidanzatino, eh? Ma c'è il fidanzatino, ma c'è il fidanzatino, e chi è? Come si chiama? Manuele si chiama. A schiaffoni qui. Pam! Però del bambino, fortunatamente. La prima volta di cui ho memoria, mi scrive Andrea, è successo a scuola, seduto al banco, e avevo 6 anni. La cosa comica è che poi sono corso a casa a scrivere tutto alla nonna, perché come ci diceva la dottoressa non c'è sensualità, ma c'è evidentemente tenerezza in quella roba lì. A 6 anni aggressonei con una coetanea di nome Chicchi, con un caschettino castano chiarissimo che tuttora ha quasi 60 anni. Ho nel cuore Giulio. 349-238-6666, ma anche il profilo Twitter del programma Voi Siete Qui R24. È vero che nei maschi adulti che ricordano questi amori sono tutte bellissime. Sono tutte con un caschettino meraviglioso, oppure bionde come l'oro, oppure castane con dei denti bianchi o con le labbra sottili. Da bambino, quando avevo 7 anni, scrive Fabio, ero innamorato di una bambina con le trecce che saliva con me sul pullman per andare a scuola. Era bellissima, si chiamava Martina, anche il nome sembra bellissimo. Grazie a Gianmarco Ferronato che è stato al mixer, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi ricordo che potete scaricare le puntate in podcast o ascoltarci in streaming, e soprattutto scaricare gli ebook che sono ancora disponibili dalla nostra pagina Voi Siete Qui sul sito di Radio 24. Grazie soprattutto, anche se non ha fatto parte della puntata, a Domenico, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Fabrizio Ballanzi, sono di Roma, la storia di domani è la mia e parla di un viaggio con me stesso. Questa è la mia storia e io sono qui.